Europa 24. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi in primo piano, i confini caldi dell'Europa. Un primo bilancio degli scontri tra polizia macedone e migranti e il confine tra Macedonia e Grecia parla di 30 feriti. Sull'alto fronte a Calais oggi riprendono le operazioni di sgombero, subito con la cronaca in diretta Anna Marino. Sì, Daniele, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. La voce dell'Europa torna a farsi sentire ed è una voce preoccupata. Le scene che abbiamo visto alla frontiera tra Grecia e Macedonia ci preoccupano molto e dimostrano che la sola soluzione è quella europea. Queste le parole del portavoce della Commissione europea Margaritis Skinas, che ricorda anche la necessità di agire in conformità alla legge internazionale e conferma che in una telefonata col premier greco Alexis Tsipras avvenuta ieri, il presidente Juncker ha assicurato fermo sostegno della Commissione europea alla Grecia di fronte all'eccezionale crisi dei profughi, crisi che continua. Infatti sulla linea di confine tra Grecia e Macedonia anche oggi forze di polizia schierate in assetto antisommosse ed elicotteri che sorvolano il campo profughi da 1200 posti. Ora contiene 70.000 persone, 2.000 bambini. Quiete dopo gli scontri di ieri, ma c'è un primo bilancio, 30 feriti, sassaiole contro lacrimogeni. Sull'altro fronte ricominciano le operazioni di sgombero nella parte sud della giungla di Calais, la baraccopoli dei migranti che sperano di raggiungere la Gran Bretagna, interrotte ieri a causa degli scontri tra polizia e attivisti no border e migranti. Intanto arriva appunto dall'Europa sulla rotta balcanica il presidente del Consiglio europeo Tusk, prima a Vienna per proseguire poi verso la Slovenia, la Macedonia e infine la Grecia. Il 3 marzo, sarà in Turchia in vista del summit Europa-Turchia sui migranti. E per ora è tutto. Bene, grazie Anna Marino. I dati italiani sul deficit e PIL sono in linea con le previsioni della Commissione europea. Questo è il commento uscito poco fa di un portavoce della Commissione. Nelle ultime stime pubblicate circa un mese fa, Bruxelles stimava per il 2015 una crescita allo 0,8, un deficit al 2,6, un debito al 132,8%. Continua il calo della disoccupazione tanto nell'Eurozona quanto nell'Unione Europea. 28 a gennaio, secondo i dati di Eurostat, nei 19 paesi la moneta unica è scesa 10,3% dalla 10,4% di dicembre. A gennaio 2015 era all'11,3, 18,09 2 milioni di senza lavoro. E per concludere il rumore, una multa più vicina per l'Italia con Campania, Sicilia, Lazio fuori norma. L'Italia rischia un'altra multa europea, ancora una volta per l'ambiente, ma questa volta i rifiuti non c'entrano. Sotto accusa invece c'è il rumore. La procedura di infrazione è già avviata, ma Bruxelles ha mandato ora l'ultimo avviso, una lettera di messa in mora complementare, altrimenti si aggraverà la nostra situazione. Nodo del contendere, i troppi assordanti decibel. Bruxelles ha approvato già più di 10 anni fa, nel 2002, una direttiva per combattere gli effetti nocivi del rumore nelle zone edificate, soprattutto vicino a parchi, scuole e ospedali. Ma l'Italia non è in regola e non lo sono in particolare Campania, Sicilia e Lazio, che non hanno ancora inviato le cosiddette mappe acustiche e i conseguenti piani di intervento. Il governo ha già sollecitato, le regioni promettono e in arrivo potrebbero esserci commissari straordinari. Ma a Bruxelles non basta. Mancano ancora i dati di 10 anni fa e la situazione non sembra molto migliorata, con una città come Napoli, balzata nelle recenti classifiche, al terzo posto tra le città più rumorose al mondo, dopo New York e Los Angeles. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 torna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.